Bene, bene, bene. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao. Buonasera, siamo partiti benissimo. Un saluto speciale da Prog One. Ai nostri 5.000 ascoltatori. Cioè, in effetti lui dopo si è espresso dicendo accidenti, 5.000 ascoltatori. No, ma forse avevo detto accipicchia. No, accisdirimbina. Avevo, sì. Se non sbaglio, poi... Allora, facciamo subito la prova in diretta a microfoni, perché ci eravamo accorti di aver manomesso il mixer, quindi Prog 5 quarti, che mi aiuterà nel check, nel sound check in diretta che stiamo facendo. Come esco? Ma esci bene. Prova te? Provo io, ma penso che vada più o meno bene. Comunque, dai. Tutti i 5.000 ascoltatori, magari qualcuno se trova qualche defiance audio, ci può scrivere in diretta dove? Ma io direi su postawombat@insiberia.net. Bene, allora vi diamo il benvenuto a tutti. E la sigla di oggi erano i Camel, praticamente... E, diciamo, abbiamo chiuso con quella che è stata la storia nonché l'approfondimento della scena prog italiana degli anni 70. E siccome diciamo diversi compagni così ci hanno accusato di patetico nazionalismo, così diciamo, oh, è solo roba italiana, benissimo, allora abbiamo buttato giù un po' di muri, che ultimamente va di moda tirar su, e così ci siamo spostati a diciamo quella che la critica musicale definisce la terra madre della progressive, vero Prog 5 quarti? È verissimo, anche se dalle nostre brevi ricerche, a parte alcuni casi, diciamo che nella prog italiana c'era roba molto più valida, cioè, sì, via. C'era proprio strettamente nell'ambiente prog, diciamo. Però, la patria, i pionieri della musica progressive sono considerati gli inglesi. E come gruppi come Emerson, Lake e Palmer, che abbiamo già sentito approfonditamente, come i Genesis, come i King Crimson... E poi piano piano la scopriremo nel proseguimento delle nostre puntate il rovescio della medaglia, perché il nome non cambia. No, il nome lo conserviamo, abbiamo azzeccato una cosa giusta, teniamola, no? C'è il marchio registrato, quindi tocca andare dal notaio, rifare tutte le scartoffie, quindi il nome rimane quello. Sì, però stiamo pagando i diritti d'autore al rovescio della medaglia, quelli veri. Vabbè, poveretti, i diritti ce l'avevano anche loro. Non suonano più e si sa che di musica non è che si campa tanto, e quindi giustamente diamo il nostro piccolo contributo ai componenti del rovescio della medaglia, che magari quest'ora possono permettersi il lusso di stare comodamente seduti sul loro divano grazie al nostro contributo. Va bene. Allora, questa è la 13ª puntata del rovescio della medaglia, e quindi con oggi si apre ufficialmente un nuovo capitolo. Non sappiamo per quante puntate, però diciamo si apre ufficialmente un nuovo capitolo, sempre andando in ordine alfabetico con quello che abbiamo trovato, quello che abbiamo ricercato sui gruppi anche meno conosciuti del prog inglese. Era un rumore di accendino questo? No, era il riverbero. Abbiamo scoperto oggi che Prog 5 quarti ha involontariamente creato con una cassettina spia l'effetto riverbero in sala regia. È fantastico, quindi dovremo brevettare anche questo, oltre al nome del programma. Siamo degli inventori work in progress. Così. Un po' casuali, ma... Sì, ma è il bello dell'essere artistici come siamo noi. Diamo qualche informazione utile subito. Il nostro sito è wombat.noglobs... No, no blog... Cominciamo bene, visto la puntata è tutta in inglese, perfetto. Noblogs.org, twitter.com/radiowombatfi e facebook.com/radiowombatfirenze con i trattini, non lo so se sono obbligatori, però comunque non è difficile trovarci anche su Facebook. E apriamo questa puntata con gli Argent, o come li hanno nominati fino a qualche secondo fa Prog 5 quarti, Argent, un po' en français. En français, oui. Così, dei noantri però, sì, sempre, sì. Perché noi ricordiamo che siamo sempre un po' così. Sì, ci piace dare delle interpretazioni personali a quelli che sono i nomi e strabiliarli e speriamo non ridicolizzarli, magari c'è qualcuno che ci tiene più di noi. E va bene, gli Argent praticamente, o l'Argent che dir si voglia, sono un gruppo prog inglese che si sono formati nel 68 e questo gruppo prende il nome dal tastierista della band, tale Rod Argent, e che era l'ex componente degli Zombies, o The Zombies, che è un gruppo psichedea, aiutami te che sei più... Sì, precedente al 68 penso sia più definibile tra la psichedelia inglese di quegli anni, no? tra il 67, 68... Sì, 66 anche. 66, sì, come diciamo l'inizio dei Pink Floyd, come... Jethro Tull. Jethro Tull, sì, però all'inizio non erano troppo psichedelici Jethro Tull, più, che ne so, i Cream. Sì, sì, di quegli infatti. Anni delle, sì. Li avevamo trovati prima, altri gruppi... Ten Years After. E... Sempre con delle... diciamo delle influenze rock blues, però con dei tratti psichedelici molto, molto forti, molto intensi. E degli Argent praticamente hanno avuto una discreta discografia che si apre sempre nella tradizione eponima o omonima, ormai non si sa più qual è il termine giusto. Cominciano nel 70 con l'album eponimo / omonimo e praticamente arrivano fino al più o meno 75, quindi ci sono 5 anni, compreso anche un live, ci sono 5 anni di carriera discografica. E noi abbiamo scelto, abbiamo messo sotto la lente dell'ingrandimento del rovescio della medaglia. E quali album abbiamo da presentare? Prog 5 quarti? Abbiamo il primo album. Il primo album è del 1970. Argent. E si chiama appunto Argent o Argent. E presentiamo due brani di questo album. Il primo si chiama Cast Your Spell Uranus e il secondo si chiama Lothorien, che non so cosa significa, sembra un nome un po' della mitologia celtica, non vorrei dire una cazzata, però... Ma tanto sono i nostri 5.000 ascoltatori, sono abituati anche a quello. Anche a... sì. Alle nostre cazzate. Va bene, ma però nessuno ancora ci ha smentito, perché non è arrivato nessun reclamo e nessuna rettifica su postawombat@insiberia.net. Nemmeno quindi... nessuno ci ha aspettato fuori dalla regia quindi vuol dire in qualche modo diciamo che fin qui tutto bene, ecco. Va bene, allora apriamo con gli Argent dell'album omonimo del 1970 e con Cast Your Spell Uranus e Lothorien o Lothorien di Argent su Radio Wombat. Ah. tales of trouble and wounds of change to come. I must leave you at this hand so fair. Ok, allora ecco, loro erano gli, erano e saranno anche dopo gli, gli Argent, e dal, abbiamo ascoltato due tracce, due pezzi dal loro primo album, si chiama Argent del 1970, e facciamo un salto temporale nella, nella breve, nella breve carriera del, degli Argent, e saltiamo al, andiamo direttamente al 1974, che diciamo per quello che riguarda la critica musicale prog, prog semplicemente descrive, diciamo, nel descrive questo quest'album di cui andremo a presentare ora due pezzi, che si chiama Nexus, uscito nel 1974, e viene descritto un po' come, come l'apice del, delle sonorità progressive del, del, del, del gruppo. E di questo album, Nexus, che è uscito nel 1974, come ripetiamo, andiamo a presentare due pezzi, The Coming of Kotek, Kotek, sì, cosa del genere, e Infinite Wanderer. Loro sono gli Argent. We'll be right back. Ok, allora avete avuto modo di ascoltare gli Argent, o Argent come li chiama Prog 5 quarti, che da Argent. Oggi ha deciso ufficialmente di rinominarsi Prog 5 quarti, perché fa figo chiamarsi con un tempo dispari. Tempo dispari per il prog fa un po' figo. Lo sostiene lui. Io condivido. Mi sono dato un soprannome da solo, cosa che non si fa però. È fantastico, un po' di egocentrismo ogni tanto non fa male. Comunque, passiamo al prossimo gruppo, sempre inglese ovviamente, che si chiamano i Camel. Una cosa particolare è che in tutte le copertine dei dischi ci sono raffigurati dei cammelli. Non dovevo dire io. Dovevi dire te? Ma te hai presentato gli Argent. Era bello perché l'avevo scoperto io. È vero, la soffiata me l'ha data Prog One. È stato fantastico perché oggi ti ho fatto notare la copertina di un album dei Camel che raffigura te l'hai capito al volo chiaramente, visto che c'ha 40 anni di tabagismo alle spalle, ha riconosciuto al volo la copertina di un album dei Camel che riproduce le... No, una nota marca di sigarette, che non si può dire una come nota si chiama. Marca di sigarette in cui è raffigurato... No, molto, prego, prego. Molto diffusa, no? In che no? Di là deve proprio no, 5 no. Quarti, perché io non... Dove è raffigurato un cammello con delle piramidi dietro, un po' però... quasi sfocato, quasi da miraggio, appunto, come ci suggerisce il nome dell'album, Mirage. Sì, perché quando sono uscite queste sigarette io ero ancora nei progetti di crearsi una famiglia dei miei genitori, quindi magari te già fumavi. Io già fumavo, no, ma in realtà ho cominciato tardi a fumare. Poi infatti se mi ascolta la mamma, devo dire, no è vero, ho cominciato tardi a fumare. Sì, più o meno 3-4 anni fa, la prima volta mi chiese a me una sigaretta. E... Sì, è stato lui che mi ha corrotto. Comunque, che sigarette fumavo? Proprio quelle dell'album. Quelle della nota marca di sigarette che raffiguravano un cammello. E erano quelle senza filtro, perché era il pacchetto quadrato in quasi. Miniatura. Sì. Comunque, questo gruppo che si chiamano i Camel, secondo la critica, fanno parte di quello che è stato chiamato, che leggendo qua e là, sia su internet che sui nostri grandi testi che consultiamo sempre, fanno parte della scena di Canterbury. Nel Kent, in Inghilterra, era un gruppo abbastanza eterogeneo di musicisti e di band, di cui facevano parte anche i Gong con il leader, diciamo, dei Gong, David Allen, che veniva dall'Australia, e dei Soft Machine di Robert Wyatt, che comunque, anche se non sono dei gruppi proprio prog, senti come allittero questa R, sì. Facciamo parte un po' della scena un po' psichedelica, un po' progressive di fine anni 60, inizio anni 70. Anche se poi i Camel nel 75, Prog 12, no, Prog 5 quarti, perdon. Escono. Prego. Con dillo te. Escono con nel 75. Escono con Prog 5 quarti. Ah, escono ovviamente escono con un concept album. Il fantastico, il tanto chi è che non ha fatto un concept album? Il tanto menzionato concept album che stanno con i nostri 5.000 ascoltatori stanno cominciando a odiarci per presentare una serie di concept album. Ne hanno le bip piene di concept album, ma noi imperterriti, bastian contrari, continuiamo a presentare concept album. Concept album che si chiama Music Inspired by The Snow Goose, la musica ispirata dalla, dall'oca delle nevi, si può tradurre così? Sì, sì. Grazie. Senti, e cosa, comunque, cosa ci vuoi mandare dei Camel? Allora, dei Camel, mandiamo appunto l'album Mirage del 1978. No, non è del 74. Del 74, però qui hai scritto forse 78. 78 forse è uscita la prima ristampa. Ah, ti hai scritto allora la data della prima ristampa, è vero, perché... Sì, deformazione. Sì, aveva lui il vinile della prima ristampa del 1978 e ha scritto quello, però mi ha tratto un po' in inganno. Quindi, Mirage dei Camel del 1974, vi faremo ascoltare una suite dal nome... I vari movimenti si chiamano Nimrodel, The Procession and The White Rider, qui su Radio Wombat. For darkness turns once more to light. Through the skies his white horse flies to find a land beyond the night. Thank you. wizard of them all came back from his fall, this time wearing white. He has a certain air as if he's never there, but somehow far away. Although he seems afar, like a distant star, his warmth he can convey. Questi erano i Camel con il loro primo album Mirage. Allora, il secondo album, quello che dicevamo prima, è il concept album chiamato Music Inspired by the Snow Goose. Che ci vuoi anche raccontare l'aneddoto che hai appena scoperto che fa riferimento a questo concept album? Cioè, questo aneddoto, praticamente, questo album era ispirato a uno scrittore inglese che si chiamava Paul Gallico, che era un sostenitore, un accanito sostenitore oppositore, era un sostenitore della campagna contro il fumo. E visto che loro si chiamavano Camel, lui pensava che fossero legati direttamente al famoso marchio di sigarette che si diceva prima, e loro hanno cambiato un po' il nome dell'album. Prima si doveva chiamare solo The White Goose, che era non è questa la storia. The Snow Goose. Scusate, la neve è bianca. ho avuto un lapsus. Cioè, Proguno è sdraiato in terra che sta ridendo, ma io vado avanti imperterrito. Comunque, The Snow Goose, no? The White Goose. Mi sono fatto confondere dal colore. Comunque, non lo chiamarono solo The Snow Goose, ma Music Inspired by The Snow Goose. Ora voglio vedere chi è che mette il pezzo, visto che Proguno si è lanciato dalla finestra. Eccomi, eccolo, si è ricomposto. Ci sono, allora. Sì. Allora, di sicuro non avrete capito un cazzo su questo aneddoto. Comunque, questo autore del libro pensava che loro fossero legati al marchio di sigarette, invece no, e quindi hanno cambiato un po' il titolo del romanzo di questo Paul Gallico. Come si chiamava? Gallico. Paul Gallico. Comunque, questo è un concept album, ma vi faremo sentire un solo pezzo che Prog One, come si chiama? Ryder goes to the town. Goes to town. Sti cazzi. Il mio inglese sono migliorato molto, mi è costato parecchio il corso intensivo di meno di una settimana, so che fino a martedì scorso il mio inglese era maccheronico, di pessimo gusto, sono migliorato negli ultimi 4-5 giorni, mi è costato parecchio, ho aperto un mutuo, però va bene, ci siamo. Però hai fatto progressi, si sente. Hai fatto progressi. La risata, e non la trovo più la se non me la metti in scaletta, come fa a metterla? L'ho messa in scaletta. Dove? Vabbè, non c'è in scaletta, sì, proprio. Ah, ecco, e la mettiamo subito allora. Sentite un po' la spontaneità di questo programma. Sì. Perfetto, quindi andiamo avanti con i Camel. Grazie. Questo breve momento comico, questo piccolo stacchetto comico del duo comico del rovescio della medaglia. Andiamo a presentare. Li presenti te o li presento io? Prog 5-4. No, l'abbiamo già presentato. Basta devo solo mandare ridici, sì, ridici il nome che. No. Ryder Goes to Town. Ghost Town, potrei anche dirlo in versione più anglofona, più... Ecco, più con un accento del sud di Londra. Sì. Cockney. Bene. E ancora con noi i Camel qui su Radio Wombat. eccoci qui. Allora, abbiamo appena ascoltato Raya, com'era? Non mi ricordo più. Raya del Ghost to Town, Ghost to Town, dal concept album appena presentato, anche in maniera un po', oserei dire, storpiata da Prog 5 quarti, che bene. Allora, il sì, prossimo, come si chiama l'album? L'album te lo dico subito, si chiama Music Inspired by the Snow Goose, o per gli amici The White Goose, un po' come gli alias, no? AKA The White Goose. Di sicuro l'oca delle nevi sarà bianca, di che colore è? Se no, mica sarà nera, se no la vedono tutti. Si mimetizza. È interessante che Prog 5 quarti mi fa sempre intrippare con questi aneddoti strani, no, che tira fuori. Mi arrampico sugli specchi. Sugli spettri, famoso gruppo che abbiamo presentato anche. C'era tra l'altro pure il disco degli spettri. Vabbè. Allora. Ah, non vi ho detto una cosa, che oggi Prog 1, che assomiglia un po' a Rogue One, non so se per i nerd seguaci di Star Wars avranno capito. Comunque si è presentato con un disco nel senso in vinile, dei Campo di Marte, del grande gruppo fiorentino di prog italiana, che abbiamo presentato nelle scorse puntate, e era felicissimo. È veramente un bel album. Andate a risentire la puntata dedicata in parte al Campo di Marte, che sarà stata la terza, la quarta, sì. La lettera C, quindi sì, più o meno. Comunque, la terza barra quarta, sì. È tipo un bambino con un gioco, con una roba chiaramente ristampa, perché se era originale avrei dovuto vendere un rene, quindi ero qua in convalescenza, per lei mi manca un rene perché ho comprato il disco, quindi. Però una grande ristampa di che anno? Del 2006 è uscita, nonché prima ristampa, quindi un vanto, prima ristampa dei Campo di Marte. E ci sono diverse altre ristampe che non vi dirò mai dove le ho trovate, quantomeno ve lo dirò quando le ho finite di comprare io, fra qualche anno, vi dirò il posto dove le ho trovate, però questo è un piccolo fuori tema, si è fatto un po' di outing, come dicono i giovani moderni. Bene, allora andiamo a presentare l'ultimo album dei Camel. Dei Camel, ora sono diventati Camel. L'ultimo album cambia anche la pronuncia dei Camel. Ci volviamo anche noi. Ok, presentiamo l'ultimo album dei Camel. Così è l'ultimo album, si pronuncia proprio. Secondo così. Me si pronuncia così. Voi andate a ricercare, mettete l'audio di Google Translate. Ora ci Camel. Provo, ora lo cerco, aspetta. Vabbè, intanto che intanto che Prog 5 quarti trova la versione audio della pronuncia, anche perché non sapeva minimamente cosa avrebbe presentato, quindi si è salvato per l'ennesima volta in calcio d'angolo. Dico io che praticamente chiudiamo l'esperienza con la nostra esperienza con i Camel o Camel nel 76, presentando dall'album Moon Madness, c'è la versione audio. Ma si sente un po' poco. Ma riproviamo. Era un po' lontano dalla mia interpretazione. Avete sentito, appena sentito. No, il Camel. Ti è venuto così. Dei Camel gli sta dando un'interpretazione, una lettura tutta sua, dai titoli degli album fino al gruppo. Vabbè. E, diciamo che per dignità di programma e di noi conduttori, lo chiudo io, chiudo io il capitolo Camel. Sì, perché sinceramente, cioè, dopo un po' di Camel, mi sono venute due robe, testuali parole di prog 5 quarti, chiaramente io non mi abbasso a andiamo avanti per, sì, per dovere quasi di cronaca, no, anche perché abbiamo una scaletta e va rispettata, ci piace, come si dice, una scaletta corta, e c'è, cioè, quel detto popolare che dice corta ma piena di merda. Speriamo che non sia così. Praticamente finiamo con presentare i Camel col 1976, con l'uscita dell'album Moon Madness, che forse si dice Madness. Moon Mad, no, ma io c'ho sempre la deformata perché io... Ah, ma c'hai l'accento un po' gaelico. Sì, no, perché sai... Sai, siccome io ascolto tanto reggae anche, e quindi il patua, la pronuncia inglese giamaicana è quasi un po' come le lingue latine, quindi tante parole si leggono come si scrivono. Come si scrivono. Vai. E quindi un po', perdonatemi, e poi quando passerò a fare reggae, allora lì avrò campo aperto e sarò anche elogiato per la mia pronuncia patuaia mansen. Vabbè, io lì mi butterò dalla finestra, veramente. Lì prog 5 quarti, non so come reagirà. Vabbè. Praticamente presentiamo quest'album e chiudiamo con i Camel, perché non per mancanza di spazio, ma semplicemente perché, diciamo, sotto pressione del batterista Andy Ward, che voleva spingere, e ci riuscì, perché poi il risultato degli album successivi al 76 c'hanno un accentuato stile jazzistico, che a noi non interessa perché fedeli alla linea prog 100%. E quindi si chiude, secondo noi, si chiude il capitolo Camel con questo album, di cui andiamo a presentare due pezzi che sono Song Within a Song e Another Night. Loro sono i Camel, dall'album Moon Madness o Madness del 1976. Sempre su Radio Wombat. Thank you. E questi erano l'ultimo disco dei Camel che vi presentiamo questa sera. Non si chiamavano Camel. Camel. Pro 5 quarti, te è un po' lunatico. Moon Madness. Lunatico, è il caso di dire. E qua potremmo quasi tradurlo Moon Madness con lunatico. Sì, è vero, non ci avevo pensato. Sono. Vedi, oggi. Questa è un'interpretazione. Revelation Day. Valida, valida. Allora, da questo nostro lunatismo vi presentiamo, arriviamo alla nostra rubrica, l'agendona della settimana. Che è un po' limitata. Non abbiamo lo stacchetto per l'agenda della settimana? Ce l'abbiamo. L'agenda della settimana. Certo. Allora vi presentiamo questa serata interessante di giovedì 9 febbraio, la notte del dove, al CSA Next Emerson. Appunto, vi ho risposto con il titolo. Sì, è presentata dal collettivo Nuovi Rumori con tre gruppi, i Qui, Avant-Garde Rock Weirdos da Los Angeles. Oh, Los Angeles. A Los Angeles. Sì, claro, loco, Los Angeles, sì. Dipende da di dove viene. Bene, abbattiamo i muri, tutti i muri tra il Messico, gli Stati Uniti e tutti i muri che ci sono in giro per il mondo. Soprattutto in Europa ultimamente. Vabbè. Sì. Poi quindi i Qui, i Dora Maar da Firenze, post-punk, e i Pol Sintetico, Casio Core da Prato. E questa è la serata, vi ricordiamo, del 9 febbraio, giovedì 9 febbraio, al CSA Next Emerson, in via di Bellagio numero 15. Poi vediamo altri eventi, vediamo un po' che eventi si presentano in settimana interessanti. Sì, vediamo che cosa ci offre questa agenda della settimana o agendona della settimana. Che finisce qui. Finisce qui, non c'è niente di interessante. No, c'è ancora, ricordiamo che c'è questo è sabato, invece sabato 11 febbraio al Camilo Cienfuegos, al cantiere sociale Camilo Cienfuegos a Campi Bisenzio. Ci sono i 5 MDR o 5 MDR e i Luddite Riot e i Bankshot. Serata punk, street punk, come ripetiamo, sabato 11 febbraio al Camilo Cienfuegos. E basta, per quanto riguarda la rubrica degli eventi della settimana, direi che ci siamo. Sì, comunque, se avete da segnalarci eventi interessanti, musicali e non, potete sempre scriverci su postawombat@insiberia.net. Fantastico come l'hai pronunciato. Andiamo avanti con la trasmissione. Presentiamo il prossimo gruppo che andiamo a presentare. Non so perché li sto presentando io, ma va bene. Sono i Caravan. I Caravan, grandi Caravan. Ora voglio proprio sentire come storpi il nome. No. Caravan. Che è un gruppo legati al filone della scena a te tanto cara di Canterbury. La scena di Canterbury che, come non ho detto prima, è sì legata al prog inglese, ma con molte influenze jazz, jazz rock, psichedeliche, elettroniche, che un po' si discosta diciamo dal prog classico. Questa è la scena di Canterbury. Loro sono i Caravan. Dici quando si sono formati? Ma si sono formati nel 1968, quindi con ovviamente delle sonorità più psichedeliche, fino ad arrivare al 1971 con l'album In the Land, appunto del 1971, che da questo album vi faremo sentire un brano che abbiamo scelto accuratamente, che si chiama Winter Wine. Loro e questi sono i Caravan. Thank you. questi erano The Caravan in the Land of the Grey and Pink. Qualche articolo determinativo in più. Sì. In the Land of Grey and Pink. Ah, ho capito. Ci ho messo un articolo. Non azzecco una stasera. Però questo era. Il brano si chiamava Winter Wine. Il prossimo pezzo è sempre dei Caravan, che vi andiamo a presentare, si chiama The Love in Your Eyes, è tratto dall'album Waterloo Lily. Te ora proghi 5 quarti, pensi che presentando il pezzo io lo mando immediatamente? No, se hai da aggiungere qualcosa... Sì, possiamo dire, dai. Praticamente è un album del 72. Ah, interessante. È un album del 72 che è il quarto loro album. Sì. E che, ma dai. E che con noi, diciamo, con i Caravan finisce la nostra esperienza, perché poi già con questo quarto album, Waterloo Lily, cominciano sempre più a avvicinarsi alle sonorità jazz, quindi escono fuori dal nostro campo visivo e auditivo. E quindi ora possiamo collegarci alla tua presentazione minimale, Love in Your Eyes, dall'album del 72 Waterloo Lily, e loro sono i Caravan. The Love in Your Eyes. Caravan. E questo era il penultimo gruppo che vi presenteremo questa sera, e andiamo direttamente all'ultimo gruppo, che si chiamano i Colosseum, ovviamente un altro gruppo inglese, che abbiamo scelto un solo pezzo un po' particolare perché è una cover, se così si può chiamare, una cover di un brano di musica classica tratto da un balletto di Maurice Ravel, che è uno dei pezzi più noti di Ravel, che è il Bolero, ispirato a comunque una musica popolare da taverna. Dicono, diciamo, ispirata appunto a questo ballo, a questa danza di una donna in Spagna, in una taverna, dove lei, questa ballerina, balla sopra un tavolo, e piano piano questo ballo coinvolge tutti gli uomini, che piano piano si avvicinano al tavolo e si avvicinano alla ballerina. Questo è un pezzo del 1928, se non mi ricordo male, e questa... ti ricordi nel 28 che uscì sto pezzo? Sì, mi ricordo, sì, quando mettevo la 100 lire nel jukebox. I fiorini, forse c'erano i fiorini. Ok. Comunque sì, ispirato comunque alla danza, una danza popolare spagnola, e questa è l'interpretazione dei Colosseum. Dacci tratto a noi prog 5 quarti, dacci qualche altra informazione a noi ascoltatori, ad esempio, allora, che ne so. L'album è del 1970 e si chiama The Grass is Greener. Sì, la loro breve carriera. Ah, la loro breve e intensa carriera, perché comunque sono, diciamo, un gruppo abbastanza conosciuto. Inizia nel 1969 con il loro primo album che si chiama... Il loro primo album? Sì. Pensavo con il loro, che uscivano direttamente col secondo album. No, e loro stranamente iniziano col loro primo album. Cioè, perché tanti hanno iniziato col secondo, col terzo album, e loro iniziano con il primo album. Sono un po' una mosca bianca, diciamo. Una mosca bianca, The White Fly. Il primo l'album d'esordio è Those Who Are About to Die Sell To, che è del 69, e termina Ensoreta To, praticamente qualcosa del genere. Praticamente, che apre, lo sai chi ti saluta? Sarebbe praticamente una sorta di sai chi ti saluta, che è del 69, per finire la loro carriera nel 71 con Colosseum Live. Quindi, diciamo, ecco, come si rifletteva, come si ragionava prima con Prog 5 quarti, si diceva che comunque, diciamo, i Colosseum sono abbastanza conosciuti, anche per una basica cultura musicale, rock e non, nonostante abbiano avuto una carriera musicale molto limitata. Da notare il secondo album, sempre del 1969, che è Valentine Suite, che è una suite che comprende l'intero album, che non vi faremo sentire, però, perché comunque ci rimane un po' difficile tagliare una suite intera, dividerla, spezzettarla, quindi non ve la facciamo sentire, però la potete cercare benissimo. Anche perché, diciamo i fatti come sta, praticamente questa suite che ricopre l'intero side B del disco, che dura praticamente 22 minuti, se non ricordo male, 22 minuti e 4 secondi. Sì, poi è iniziata da un quarto d'ora circa la partita Roma-Fiorentina, quindi abbiamo perso tutti gli ascoltatori fiorentini e romani. Sì, però sono rimasti gli altri 3.824. Sì, quelli che no... A calcistici. Sì, a calcistici. Quindi vi facciamo sentire, comunque è interessante comunque andare a scoprire la, diciamo, la discografia dei Colosseum. Noi vi facciamo sentire questo pezzo, questa interpretazione, diciamo, simpatica più o meno, del Bolero di Ravel. E ve lo facciamo ascoltare dove? Ve lo facciamo ascoltare qui su Radio Wombat. Ok, siamo arrivati anche alla fine di questa puntata, per la gioia soprattutto delle nostre colleghe le bruschette dell'Accademia della Brusca, che ci ascoltano proprio assiduamente e apprezzano tantissimo soprattutto il tipo di musica che stiamo mandando. Sì, sono tra le sostenitrici più accanite della nostra trasmissione. Sì. E quindi le salutiamo e gli annunciamo ufficialmente che anche questa puntata è finita. E immagino che la bruschetta si starà rotolando in terra dalla tristezza per la fine, però dopo è così. Questo simpatico boleretto, però che facciamo? Facciamo una tradizione che un po' abbiamo perso nel tempo, di mandare un brano che anticipa un po' la trasmissione della settimana prossima, no? L'abbiamo fatto diverse volte nelle puntate precedenti. Sì, l'abbiamo fatto, ma poi un po' ci siamo persi, perché vero, non l'abbiamo più fatto. No, hai ragione, è vero. L'abbiamo fatto con gli Emerson, Lake & Palmer, anche con gli Area, presentammo gli Area. Sì. Comunque via, tutto ciò era per dire che il prossimo pezzo che manderemo sono i Genesis. Perché? Perché manderemo i Genesis? Perché la prossima puntata del rovescio della medaglia, quindi la quattordicesima puntata, approfondiremo i Genesis e i Gentle Giant, e forse anche qualche altro. Vediamo un po' cosa riusciamo a preparare durante la settimana, però diciamo all'attivo abbiamo già diversa roba e continuiamo a seguire anche in maniera grossolana l'alfabeto prog inglese, dopo visto che abbiamo cercato di dare un senso di coerenza, di continuità alla nostra trasmissione, avendo fatto l'alfabeto dalla A alla Z di quello che era la scena della progressive italiana anni 70, e cercheremo di fare, anche se in maniera più grossolana o quantomeno meno ricercata, quello che riguarda la progressive inglese. E quindi niente, vi faremo sentire, tratto non dal primo album ma dal secondo album di Genesis, che si chiama Trespass, del 1971, se non erro. Vado così a memoria, non te lo dico subito, mi sembra o 70 o 71, te lo dico subito ora, vediamo, controllo ora tra i miei dischi, spulcia un po' tra i tuoi dischi, è del 1970, sbagliato di un anno, vai. Vabbè, comunque Trespass, e vi faremo sentire la prima traccia del secondo album, che si chiama Looking for Someone, e qui vi salutiamo, vi diamo l'appuntamento alla prossima settimana, martedì prossimo, sempre alle 7 più o meno. Infatti ci scusiamo per il ritardo, abbiamo peccato di una ventina di minuti stasera per proprio 5 quarti. L'hai voluto proprio, perché hai voluto fare il figo, visto che per due o tre puntate siamo stati puntuali. No, ma perché svizzeri. C'era il blocco del traffico, noi siamo Euro 1, Euro 2. Ah, siamo, noi siamo quanti euro c'hai? io so Euro 0. Vabbè. Comunque sì, è vero, va bene, cercheremo, diciamo, ecco, rimaniamo così, che per la prossima puntata cercheremo di essere più puntuali possibile, comunque sempre il solito orario, tra le 7 e le 7 e 18, o 19 e 19 e 18, che è meglio, così è più, si capisce meglio, sì, certo. Sempre con rovescio della medaglia, sempre con prog 5 quarti e prog 1. Vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima settimana, martedì prossimo, e chiudiamo in bellezza, come appena annunciato, con i Genesis, no però quelli degli anni 80, ma quelli degli anni 70, con Peter Gabriel. Anche perché la nostra discografia dei Genesis, secondo la nostra curata ricerca nonché selezione, finisce nel 74, come magari tanti di voi sapranno. E i Genesis fino ai giorni nostri hanno avuto un'intensa carriera discografica abbastanza longeva, sicché però noi chiaramente ci limitiamo sempre a selezionare e quindi a riproporre a voi ascoltatori sempre diciamo quello che è stato la produzione prog di questi gruppi. E quindi lo stesso criterio è applicato anche ai Genesis, e quindi abbiamo chiuso la nostra ricerca con i Genesis, finisce nel 1974. Allora, parafrasando quello che ha detto Proguno, i Genesis dopo Peter Gabriel ci fanno cagare, e quindi vi mettiamo quelli prima con Peter Gabriel e Phil Collins che si limitava a fare il batterista. Enjoy. Buon ascolto, ci vediamo la settimana prossima. Questi sono i Genesis con Looking for Someone da Trespass, sempre, 1970. Sempre su Radio Wombat. Looking for someone. I guess I'm doing that. Trying to find a memory in a dark room. Dirty man, you're looking like a Buddha. I know you well. Yeah. Keep on a straight line. I don't believe I can. Trying to find a needle in a haystack. Chilly wind, you're piercing like a dagger. Sunlight through the trees to keep you warm in peaceful shades of green. Yet in the darkness of my mind, Damascus wasn't far myself a name.